Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua amici, ben trovati per questo appuntamento con Blu Radio Sera. Evidentemente siete su Blu Radio Veneto, io sono Francesco Galante, dall'altra parte del vetro abbiamo Maurizio Calzavara e in via del tutto eccezionale per questo sabato abbiamo un bel appuntamento dal vivo con Daniele Tenca e la sua band che ovviamente saluto. Buonasera Daniele, buonasera ai nostri ascoltatori. Ciao a tutti. Avete fatto un buon viaggio? Sì, sicuramente. Sì. Daniele, ti sei definito così, musicista, autore, ho raggiunto il piacere di fare musica sommato al coraggio di fare della musica uno strumento civico ed etico, la sì, tua definizione. In realtà è vero, è un estratto da una recensione che però è abbastanza centrato su quello che è diventato il suonare e il fare musica per me e anche per loro quando suoniamo insieme. Forse non è così usuale prendersi cura o avere a cuore magari, che ne so, insomma, i problemi che ci sono nel mondo o nella nostra nazione o nel nostro vivere quotidiano. A me è venuto abbastanza naturale, forse anche in relazione agli ascolti che ho fatto, certo, e alla musica che ho ascoltato fino adesso, prendere questa strada, insomma. E quindi qui siamo, insomma. Hai cominciato a fare il cantautore, il primo disco di esordio era un disco in italiano. Sì, è stato un disco e un EP in italiano, sì, si chiamavano il disco Guarda il Sole e l'EP si chiamava Non Funziona, e che era poi anche il singolo del disco in italiano. E, diciamo che è stata una parentesi, diciamo così, perché in questo momento difficilmente ho intenzione le coordinate sono un po' diverse di tornare a scrivere in questo momento un capitolo chiuso. Cosa mi ha portato a farlo? Credo sia più che altro gli eventi, nel senso che il progetto Blues for the Working Class nasceva come un side project, cioè io stavo finendo di scrivere il secondo album in italiano e invece avevo voglia di parlare di tematiche che ho affrontato nel disco, e fortunatamente ho parlato con Eggy, la band Pablo, che è una macchina da guerra, eccola qua la band Eggy, Pablo e Luca, che hanno detto va bene, lo facciamo, e senza sapere né io né loro cosa sarebbe successo dopo. Poi la strada naturalmente ci ha e mi ha portato a continuare sul filone che da side project è diventato progetto principale e continuerà adesso. Ma c'è stato un filone legato a Springsteen, perché sei diventato cantante solista o autore solista perché un giorno hai sentito dal vivo l'inizio, la fine di Born to Run dal vivo di Springsteen, ti ha dato, non so, ti ha dato un'illuminazione, voglio fare un solista praticamente, era così. Sì, addirittura prima, cioè voglio fare il cantante. Poi addirittura arrivare a scrivere pezzi propri e suonare pezzi propri dal vivo, cioè è stata una cosa che è arrivata col tempo, cioè in quel momento lì mi sarei accontentato già solo di salire una volta sul palco, insomma, no? Ma sei salito molte volte poi sul dopo palco. Sì, parliamo ormai di un bel po' di tempo fa. Esattamente. E però, insomma, sì, la leva principale è stata, e questo credo succeda per un sacco di gente, lo spirito di emulazione, no? Certo. Cioè dire figo quello che sta sul palco, mi piacerebbe fare quella roba lì, e poi alla fine lo fai, cioè, sì, provi a farlo, insomma, ecco. Però tu hai suonato per molti anni nella tribute band più famosa d'Italia, su Springsteen, chiaramente. Sì, ci chiamavamo Badlands, loro esistevano già prima che iniziassi a suonare insieme a loro. Abbiamo fatto dei bei giri, 200 date, siamo venuti anche a Padova, certo, qualche volta al Banale, non so se esiste locale storico. Sì. Suonavamo lì, abbiamo girato l'Italia, abbiamo fatto un sacco di belle cose, poi quando io ho iniziato a far uscire dischi a mio nome, chiaramente ho smesso di fare il cantante dei Badlands. I Badlands hanno deciso comunque di non proseguire comunque. E, alcuni di loro hanno suonato in Guarda al Sole, certo, tra le altre cose, e comunque rimane un'esperienza fantastica, perché poi molta della gente che ci seguiva mi segue ancora, con molti si sono instaurati anche dei rapporti di amicizia, insomma è sempre bello ritrovarli nelle serate. E poi quando canti 2 ore e mezza a Springsteen, alla fine poi non ti spaventa più niente. Certo, poi c'è una cosa, un aneddoto molto simpatico. Quando è morto Curtis Clemons, tu hai telefonato tutti gli altri. Sì, ci telefonati siamo, ci siamo chiamati tutti. È stata una cosa. Non suonavamo insieme da 6 anni, praticamente, tranne due parentesi, una parentesi alla Feltrinelli per presentare Guarda al Sole, quindi ti parlo comunque del 2007. E niente, insomma, ci è venuta in mente la prima cosa che abbiamo detto: ma perché non facciamo un concerto per ricordare Clarence Clemons? E l'abbiamo fatto alle Scimmie il 4 luglio, tra l'altro, neanche una data poi neanche così tanto a caso, esatto, nella storia americana, con alle spalle due prove dopo 6 anni che non suonavamo insieme. Di cappelle ne sono uscite probabilmente, però dalla reazione della gente è stata, e dall'emozione che abbiamo provato noi, è stata una bella serata che doveva ed è stata ed è rimasta unica, perché dovevamo dirgli grazie a nostro modo, insomma, certo, l'abbiamo fatta. Parliamo di questo nuovo album, un album dal vivo che praticamente raccoglie le esperienze dell'album da studio. Sì, sì, esattamente. Raccoglie una data in particolare del Blues for the Working Class Tour, fatta a dicembre all'Amigdala Theater di Trezzo sull'Adda. Quindi l'idea di base, di fondo, era quella di catturare per quanto sia possibile, perché poi i concerti, io sono sempre dell'idea che vanno visti e vanno ascoltati sui dove e quando vengono suonati, però nell'impossibilità di farlo abbiamo cercato di catturare il più possibile quello che succedeva, che ci stava succedendo durante le nostre date in giro per l'Italia e non solo, e cercare di trasmetterlo su disco in modo tale che chi è venuto ad ascoltarci qualche volta si trova magari a rivivere qualche emozione che ha provato, e magari chi non ci ha mai sentito dal vivo ascolta il disco e o decide di non venire proprio definitivamente. No, questo no. O se no, magari viene a sentirci una volta. No, vengo. Devono venire poi, assolutamente. Poi devo dire che fortunatamente sì, vengo. Fino adesso sono sempre arrivati. Certo, allora cominciamo la trasmissione sentendo un pezzo del disco. Che, nella scaletta, cosa hai scelto per iniziare? Il primo pezzo che ho scelto è un pezzo di Blues for the Working Class, cioè del disco in studio. Disco in giro in 3 giorni, ragazzi, bisogna dirlo. In 3 sì, giorni solamente. Sì, questo è più che merito mio, è merito dei 3 demoni che sono seduti, esatto, qua della con band. Me. Sì, inciso in 3 giorni alle Officine Meccaniche di Milano, poi mixato con un po', sì, certo, un po' più di calma, per fortuna. Il pezzo è 49 People, che è stato l'ultimo pezzo che abbiamo registrato e che ha posticipato l'uscita del disco addirittura, perché parla di una storia realmente accaduta. Sono 49 operai di un'azienda di Milano, di zona Lambrate, si chiama INSE, che hanno lottato per 14 mesi senza prendere un euro per difendere il loro posto di lavoro. In tutta risposta si sono trovati un giorno la polizia antisommossa davanti ai cancelli che gli impediva di andare a lavorare. 8 giorni e 8 notti sono saliti su un carro ponte 4 di loro, finché l'azienda è stata fortunatamente rilevata da un imprenditore bresciano. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere poi anche alcuni degli operai che sono stati sul carro ponte in questione, a cui era arrivato il disco per vie traverse. Ed è stato, come puoi immaginarti, una cosa toccante ed, certo, emozionante. E siamo ancora in contatto, so che l'azienda vive, l'azienda produce, i 49 sono anche diventati, se non erro, 52, quindi è stata una forma di lotta che ha avuto successo. E io, quando introduciamo i concerti questa canzone, che credo abbiamo sempre suonato in tutte le date che abbiamo fatto, dico che se qualcuno chiede che cosa potrebbe voler dire nel 2012 classe operaia, ecco, i 49 alle Inse di Lambrate, così come per esempio gli operai del binario 21 che ci sono adesso sulla torre in stazione centrale, possono essere una buona risposta. Quindi perché non iniziare con 49 People? Certo. insane. 8 days of a white war, nobody left on the ground. Speculators are over, the fight can make him proud. 49 people showing the way to get what we deserve and born again. 49 people who burn the rope on the noose. 49 people with nothing left to lose. Radio Sera. E allora eccoci qua ancora insieme in questo nostro sabato insieme a Daniele Tenca e la sua band. Abbiamo ascoltato questa 49 People dall'album Blues for the Working Class di Daniele Tenca. E allora Maurizio, siamo la band, Daniele, questa macchina da guerra come l'hai definita? Sì, partiamo dal motore. Dal motore, vai. Io sono Pablo Leoni, sono batterista. Luca Tonari, il bassista. Eggy Vezzano, la chitarra. E tu? The Blues for the Working Class Band. Perfetto. Mi piace ricordare anche altri due amici che hanno suonato nel live, in Live, sì, for the Working Class, sono Leo Geringhelli alla chitarra e Cristiano Arcioni all'organo Hammond, che hanno suonato anche in alcune delle date del tour, e quindi anche loro hanno dato una grossa mano a portare in giro questo lavoro. Il disco è stato suonato però da noi quattro più altri ospiti: Andy J. Forrest, Massimo Martellotta, Marino Severini, Cesare, certo, Basile. È la gang importante nel tuo percorso sonoro, la gang? Sì, beh, se fai questo tipo di progetto in Italia, insomma, è inevitabile. Non puoi, almeno a me è venuto naturale pensare a Marino Severini e a invitarlo su un brano, perché, certo, cioè, loro hanno fatto della lotta di classe, non solo, insomma, un importantissimo cavallo di battaglia, insomma, tutta la loro carriera artistica è a questa direzione. Quindi se si entrava a far parte di questo tipo di tematiche, non si poteva non pensare a loro, insomma. Certamente la gang è stata importante. Poi tu hai vinto un premio importante, Fuori Controllo. Sì, Fuori al Controllo è stato, che era un album della gang, che, esatto, prende il nome perché poi il premio è proprio dato, esatto, da Marino Severini, no? E sì, è stata una bellissima sorpresa, perché poi è un premio legato al MEI, che, sì, è il meeting del ticket indipendenti, e fa piacere che un progetto blues, che è difficile in Italia, molto difficile, che se parliamo, cioè, etimologicamente della parola indipendente, forse è molto più indipendente di tante altre, certo, cose che si definiscono, sono d'accordo con te, vinca un premio che è anche per certi versi patrocinato dal meeting delle etichette indipendenti, dove di blues se ne ascolta veramente poco. Poco, quasi niente. Quindi questo è una cosa molto, ci ha fatto doppiamente piacere. Colgo l'occasione anche per ringraziare tutti loro, Marino, Severini, Marco Denti e tutta la giuria del premio Fuori dal Controllo, perché spero che sia una spinta anche perché il blues abbia accesso a tutta una serie di scene, chiamiamole così, tra virgolette, dove invece si fa fatica. E perché hai deciso di fare il blues da cantautore impegnato, rockettaro, springstiano, arrivare al blues? Perché le tematiche di cui parlavo avevano bisogno di questa musica. Cioè, se parli di lavoro, a me è venuto quasi automatico pensare al blues. Certo. È vero che poi una delle differenze può essere che nel blues si parla in maniera molto più personale, no? Della fatica, diciamo così, individuale, o dei problemi sentimentali individuali. E qui, dal punto di vista dei testi, c'è stato il tentativo di allargare un po' il campo, no? E questa è un po' forse una delle differenze o delle novità, se vogliamo, rispetto diciamo alle tematiche classiche dei testi blues. Però parlando di lavoro è stata la cosa che mi è venuta più naturale. Certamente, fondamentale. Però una band di blues fondamentale deve suonare. Il live è l'universo sonoro della band di blues. Cosa suoniamo d'accordo per iniziare questa cavalcata stasera? Suoniamo il primo pezzo di tutti e due i dischi che fino adesso abbiamo sfornato. Citato. Non sarà anche il primo pezzo del prossimo, probabilmente. Si chiama Cold Comfort. Che è un pezzo molto accentuato rispetto al pezzo precedente, all'origine da studio. Sì, c'è stato un cambio di tempo, proprio anche di BPM rispetto al live. Qui siamo in versione un po' acustica, sarà una roba un po' a mezzo magari. Lo collochiamo in mezzo tra il disco in studio e il disco live. Vediamo cosa esce. Here we go. Smokestacks rise on the Starkland where they burst my grandpa's farmhouse down to get his sign on the surrender terms. They had drive him really drunk. Thank you. Bellissimo, complimenti, un Eggy Vezzano strepitoso alla solista, complimenti. Very well, bellissimo pezzo, blues, blues, non dico torrido ma quasi, anche se l'avete fatto acustico stasera. Sì, per noi siamo seduti, tranquilli. Voi siete seduti, adesso, tranquilli. Se no diventa un casino. 70 date col disco precedente, 70 date, cosa sì. 70 date, Daniele? Beh, una buona cifra. Una bella cifra. Una buona cifra, siamo contenti. Sta andando bene ancora adesso, stiamo girando, insomma, quindi... speriamo che duri, cioè, sì. La cosa importante è andare avanti così, magari farne anche di più. Abbiamo fatto anche in queste date, ci è capitato di fare anche delle, insomma, delle cose molto interessanti, insomma, aperture a Robin Ford, Anna Popovic, insomma, di recente anche Otis Taylor, Johnny Winter. Parliamo un momento di recente Johnny Winter che avete aperto praticamente. Sì, abbiamo aperto a Trieste per Johnny Winter, grazie a Trieste Is Rock che ci ha portato in apertura. Che dire, fa sempre effetto, cioè nel senso che quando comunque sei nelle line-up dei festival con questi nomi grossi qua, insomma è sempre un gran piacere. Come l'avete visto Johnny Winter? L'abbiamo visto, insomma, con tutta la sua leggenda sulle spalle, direi. Cioè, questa è la cosa più, secondo me, è la cosa poi più importante che ti porti a casa da un concerto del genere. Certo. Perché alla fine della fiera, insomma, fuori di metafora, insomma, gli anni passano un po' per tutti, no? Per alcuni che hanno vissuto più intensamente di altri, probabilmente passano anche in maniera più decisa. Però quello che poi esce è sempre quell'alone, no? di leggenda, che ti trovi davanti a uno che ha fatto la storia. Esatto, un albino che suona il blues dei neri, quindi, il migliore, assolutamente. Quindi quantomeno quello ti arriva, quantomeno. Poi chiaramente, insomma, tutto il resto probabilmente era meglio, che ne so, 20-30 anni certo, fa. Però certo, questo... Certo. Cioè il suo essere così è già molto molto molto molto molto meglio di molto altro, insomma. Certamente qualcuno ha scritto, voi cantate in inglese perché vi dà la possibilità di andare all'estero, ma tu hai detto in un'intervista non è propriamente vero che ci dà molta possibilità di andare all'estero. Sì, intanto la scelta non è stata fatta, no, per andare all'estero, ma perché fare blues in italiano si fa una fatica pazzesca, bestiale, e poi io, questo è una mia caratteristica, anche un mio limite, scrivo molto meglio in inglese che in italiano. Ok. Pur essendo di Milano, però questo... Indiana, sì, Milano-Indiana. Milano-Indiana, come un giornalista ha scritto, sì, Milano-Indiana. Sì. Però, però in realtà ci ha fatto fare una grandissima esperienza a Memphis nel 2011. Parlami un momento di questa esperienza a Memphis. Noi siamo andati a febbraio nel 2011. Cioè, l'unica band europea, o sbaglio? No, l'unica band italiana. Italiana, pardon. Perché è stata selezionata. Succede questo. Ogni anno la Blues Foundation organizza un festival enorme a Memphis che si chiama International Blues Challenge. E tutte le nazioni affiliate alla Blues Foundation mandano un rappresentante come band e un rappresentante come artista solista barra duo. Certo. Nel 2011, quindi per l'anno 2010, siamo stati selezionati noi come band italiana a valle di Blues for the Working Class. Questo ci ha portato a suonare 4 date a Memphis, una nel New Daisy Theater e altre in locali di Beale Street, che è la strada principale di Memphis, dove ci sono tutti i locali dal B.B. King's, eccetera eccetera, e in mezzo a, non mi ricordo se tipo 110 band che arrivavano, 50 dagli stati, da ogni stato americano, e altre 50 da tutto il resto del mondo. E è stato pazzesco, cioè, adesso non so se quelli che c'erano possono dirlo, insomma, è stata un'esperienza meravigliosa, incredibile. Al di là del suonare, che è stata già quello, perché poi cioè, la cosa bella è che lì, è vero, canti in inglese e è la loro lingua madre, quindi capiscono perfettamente quello di cui gli stai parlando, no? E questa è l'altra bella scommessa che abbiamo vinto. Però poi nel frattempo c'è la Stax, c'è Graceland, c'è il Museo di Diritti Civili, cioè ci sono tutta una serie di cose che sali sul palco e insomma hai quel minimo di energia in più che poi ti porti anche in Italia, insomma. Quindi è un'esperienza importantissimo, sì, fondamentale. Davvero, sì. Ecco Maurizio, andiamo a sentire il prossimo, certo, brano allora. E il prossimo brano lo prendiamo dal Live for the Working Class, Daniele Tenca, la traccia numero 4 che si intitola Flowers at the Gates. Come va? When I was young, full of pride, this working life was just begun. Well, as I got dressed and walked out through the city still asleep, well, I felt my heart exploding. Couldn't wait to start my shift. I heard a whistle, but something seemed so strange. Someone's crying on some flowers at the gate. There's a friend called Wilson who taught me to keep me safe. He said, beware, son, you better know these walls are full of hate. Well, I followed old and written rules, and they had to keep safe. Son, when you hear some screaming, you will know it's just too late. I learned it fast. Who was the one to blame? For all the tears. Working double shift all night while you are living, just sipping up blood like wine. It's dark on fast. Well, I taught what Wilson taught me 100 times. Was the same old struggle between miracles and danger. Was the same old line. Well, I heard a scream, I turned my head, and I knew it was too late. All around them, what was left to do was praying. I felt a blast, and there's nothing left to say. And while I passed, I saw those flowers. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E allora eccoci ancora insieme per continuare questo bel percorso insieme a Daniele Tenca e a tutta la sua band. Abbiamo ascoltato una traccia presa dall'album Live for the Working Class, appunto, di Daniele Tenca, e io, Francesco Galante, ricedo nuovamente la linea e la parola a Maurizio Calzavara per continuare la nostra intervista. Ghi, vieni un po' avanti verso il microfono. Dal vivo non si finisce mai là solo, va sempre avanti quanto si vuole, non è così? Sì, per forza. Se non mi fermo, mi devono sparare alle gambe. Ah, ti devono sparare alle gambe, praticamente. Se no non mi fermo. Perché la differenza tra live e la studio per voi non esiste, è sempre live praticamente, sì. O quasi. Cosa dici, Daniele? Sì, sì, direi di sì. Per loro, cioè, io... cioè, il disco in italiano aveva avuto una genesi un po' diversa, biblica quasi, rispetto al disco ai tre giorni del... Quindi è evidente che non c'è differenza, cioè, fondamentalmente non c'è differenza, anche dal punto di vista dell'energia. Questo è bello, ed è stata una bella scoperta, insomma. Certo, ma di solito è sempre così, quando si suona il blues si fa sempre dal vivo, anche in studio, al 99%, sì, non è così? Assolutamente così. Ma anche per... tutta la musica buona è sostanzialmente suonata, ecco, live. Tu hai detto una cosa giusta, tutta la musica buona sostanzialmente si registra praticamente in presa diretta, c'è poco da fare. Sì, perché comunque le emozioni che ne suscitano sono sicuramente molto più genuine e vere, insomma. Ma il blues che cosa suscita nella tua pancia, Daniele? Cosa ti muove nella pancia? Tu e di tutta la band qui presente. Ma io, se devo parlare per me, è una questione di pancia, cioè nel senso che difficilmente, almeno da quello che emerge dal blues, è diverso dall'istinto, no? Ecco, quindi ti riporta, secondo me, a quell'energia lì, sia quando l'ascolti che quando lo suoni. È una musica da cui è derivato moltissimo. Certo. Della musica che ascoltiamo, e anche già solo i ritmi, per come sono strutturati proprio i ritmi, pensare al jungle beat per esempio, cioè è tutta roba che comunque fa venire fuori l'istinto, insomma, ed è forse quello che colpisce, almeno a me colpisce di più, insomma. Un giornalista musicale ha scritto che il tuo sound è un insieme tra la musica di Blaster, quindi i fratelli David Alvin, i grandi fratelli David Alvin e praticamente Tony Joe White. Bravo, Tony Joe White, l'hanno dimenticato spesso e volentieri adesso, ma è un grandissimo Tony Joe White. Cosa dici, Daniele? Ah, io sono contento perché non sono riferimenti ovvi. No, esattamente no. Che è una cosa che già, voglio dire, mettiamo nel cassetto, perché poi è un po' più semplice anche per il mio passato, forse anche per i testi che vengono scritti, per la Telecaster, eccetera, eccetera, andare subito verso Springsteen, per esempio, no? Che è vero, perché probabilmente l'energia che ci mettiamo, o già solo il modo con cui, come dire, affrontiamo determinate tematiche, può riportare a quel tipo di approccio. Di approccio, sì. Però facciamo blues in questo momento qui, cioè, e Springsteen non è affatto... sembra un bluesman. No, assolutamente no. Poi è vero che per certi versi non neanche io mi definisco propriamente un bluesman, però mi fa piacere che si vadano a ricercare anche dei riferimenti che sono un pochettino più, cioè meno scontati, e che forse danno anche più l'idea di quello che suoniamo, insomma. Sì, Big Blaster è una band straordinaria, sì, due fratelli Alvin erano veramente incredibili. E anche loro, ecco, da quel punto di vista lì, ecco, l'energia che ci avevano loro, è vero che voglio dire, è un punto di riferimento che potrebbe essere, come dire, spendibile per un nostro live, no? Cioè, chiaro, con tutte le differenze del caso, non voglio essere... Però quando la musica trascina, non ci sono divisioni, poi trascina, va avanti, porta a porta determinate cose, incredibilmente, d'accordo. Non ci sono divisioni, non ci sono settaristi, no, cioè c'è solo la musica e basta, quello certo, fondamentale. A proposito di musica, cosa suoniamo adesso? Adesso suoniamo un pezzo... a cui io sono molto legato, perché poi tra l'altro è stato il primo pezzo che è uscito da Blues for the Working Class, in realtà, perché è stato dato in download gratuito il primo maggio del 2009 all'ANMIL, che è l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro, e si chiama Is Working. Ok. Thank you. another sunny morning. Eat some coffee, put some breakfast on. Then I smiled and I kissed my son and daughter. When they asked me, where is daddy gone? He's working, just working. He builds the gates of Eden far from home. He's working, just working. And when he'll get back home, nobody knows. Well, I bring them to school and put myself together. Mothers watching me from the corner of their eyes, and they fill my heart and soul with their compassion. And while I talk to them, my lips and tongue go dry. He's working, just working. He builds the gates of Eden far from home. He's working, just working. And when he'll get back home, nobody knows. You know the insurance money are gone and the times get harder. And the trial is a useless bunch of words. And now our lawyers said, you know, these days get longer. And sometimes you can't find no guilt at all. So I'm working, just working. I'm right behind the counter all day long. I'm working, just working. And I wonder why my whole life is dead and fino all'ultimo secondo, per cui qui chiaramente non si taglia niente, una solo non si può tagliare, assolutamente non si può tagliare, e sei stato anche parco rispetto alla solo del disco, molto esatto. Parco, cosa dite ragazzi? Sì, è stato sì, parco. Giusto, ma perché cioè, per tutte le stagioni noi ci adattiamo come i camaleonti. Cioè. Esattamente, pezzo molto bello anche questo, tutto in versione grazie. Acustica, la dimensione acustica, Daniele, è un po' diversa dalla dimensione elettrica, però si addice anche quella. Cosa sì, dice? A me piace molto. Io amo tantissimo tanti album acustici, anche nel rock, voglio sì. dire, anche di insospettabili, tra virgolette. A me è piaciuto sempre molto esibirmi anche in veste acustica, anche da solo, voce, chitarra, armonica, per esempio. È bello perché poi esplori anche vocalmente tutta un'altra serie di, come dire, di sfaccettature dei pezzi che invece magari con la botta dell'elettrico... Non approfondisci. A proposito di album, tu hai citato gli album che forse ti interessano e ti possono interessare, ti possono aver portato a certe decisioni musicali. Ecco, quali sono i tuoi album preferiti? Da portare, mettiamo su un'isola deserta, due da portare su un'isola deserta. Due soli. Facciamo tre, dai, su un'isola deserta. Okay. Sono anche tre a testa e non si può copiare, questa è la regola fondamentale del giochetto. Okay. Allora, io porterei sicuramente Darkness on the Edge of Town di Springsteen. E quello c'è un motivo, Factory dopo insegna, esatto, dopo ne parliamo. Magari ne parliamo, poi una bella lotta, porterei... sicuramente qualcosa di Dylan, probabilmente... probabilmente Blonde on Blonde, Blonde, l'album della svolta elettrica, dei pomodori e poi dei grandi riconoscimenti, ok? E poi, cioè, fatto salvo che uno dei miei dischi, già solo per ricordo, me lo metterei in tasca senza dirlo a nessuno, però lo togliamo dalla classifica. Va bene, ok. E il terzo... il terzo disco ce ne sono mille. A me per esempio piacerebbe, ecco, un disco che porterei è The Southern Harmony Musical Companion dei Black Crowes. Ah, dei Black Crowes, perfetto. Una sì. band stratosferica dal vivo. Siamo il batterista, vai, in coridotta stasera, però sempre il batterista. Allora, io porterei sicuramente The Joshua Tree degli U2. Bellissimo, come mai quel disco degli U2 e non un disco dopo, un disco prima? Una questione di affettività, il primo concerto che ho visto è stato di quel tour. Perfetto. Sicuramente il disco di Peter Gabriel, uno di quattro, oppure un live che ha sempre quello che hanno fatto a Milano. Benissimo. E un terzo disco, direi Stevie Wonder, ma uno dei a qualunque di Stevie Wonder. L'ultimo concerto che ho visto di Stevie Wonder dal vivo, ha fatto un DVD che io quello me lo porterei sicuramente a casa. Perfetto. L'ho preso a Memphis, infatti. Ah, perfetto. Quindi l'hai preso nel momento giusto, nel posto giusto. E tocca a te. Ma io, cioè, come si fa? Tre... lo so, sono pochi, ma il tempo è quello che c'è. Tre compilation. Tre compilation, va bene. Una compilation di blues, dove dentro ci deve essere B.B. King, Albert King, T-Bone Walker, Freddie King... vedi, e poi uno della Motown e uno della Stax. Perfetto. Sicuramente. Luca, tocca a te, vai. Allora, io un The Best di Little Walter, poi Giant Steps di John Coltrane e Made in Japan di Deep Purple. E come mai Made in Japan di Deep Purple? Perché secondo me è un'opera che chiunque deve avere a casa. Bene, fa piacere. Un'opera, poi vi ho detto. Sì, è un'opera. Ha ragione, perché è stato ristampato un sacco di volte ritorna in classifica. È un classico, c'è poco da fare. Un classico dal vivo, assolutamente. Ok, andiamo avanti. Adesso abbiamo sentito qualcosa. Ma sì, facciamo un altro pezzo live, dai, che i live sono essenziali per la vita di una band. Va bene, allora, siccome parlando prima off records, diciamo così, sì, fuori onda, parlavamo di questo pezzo e hai citato il discorso dei Blasters, che sì. era riferito all'esecuzione che diamo nel live di questo pezzo. Facciamo una cover, facciamo Johnny 99 di Springsteen. Del Boss, ok. Well, they closed down the other plant in my wallet that month. Ralph went out looking for a job, but he couldn't find none. He came home the drunk from mixing Tanqueray and wine. Got a gunshot at night, clear down, they call him Johnny 99. down in that part of town where when you hit a red light you don't stop. Johnny's waving his gun around, afraid a man to blow his stall. When an off-duty cop snuck up on him from behind, right in front of the club tip-top, slammed a cuss on Johnny 99. Well, the city supplied a public defender, but the judge was a mean John Brown. He came into the courtroom and he stared poor Johnny down. Said the evidence is clear, gonna let a sentence unfit the crime. Prison for 98 and a year, we'd call him even Johnny 99. Daniele Tenca dal vivo su Blu Radio Veneto. Ancora ben trovati, buona serata, buon sabato da Francesco Galante, da Maurizio Calzavara per questo nostro appuntamento che vede protagonista Daniele Tenca e la sua band. L'abbiamo sentito poi con una canzone che era di Bruce Springsteen. Esattamente, un classico di Bruce Springsteen, versione leggermente velutata, non tanto cattiva, ma mentre nell'album dal vivo era potentissima, avete sforato tutto nell'album dal vivo. Com'è mai questa potenza incredibile nel live del pezzo del boss? Ma perché poi in generale ci piace. C'è roba buona da bere. Roba da buona, sì. Cioè, ci piace. Sì, poi avevo un amplificatore da 300 watt. Incredibile. Menare, insomma, live, beh, ci piace farlo, devo dire la verità. Poi vabbè, siamo stati anche aiutati dal fatto che c'erano anche un organo in più, una chitarra elettrica in più, che sicuramente danno anche molto più suono. L'attitudine però è sicuramente quella lì. Esattamente. Perché quattro cover nell'album dal vivo, Daniele? Ma perché volevamo appunto mantenere la dinamica di quello la da studio. Del, sì, ma anche soprattutto dei concerti live, dove chiaramente con un solo disco blues di inediti alle spalle dovevamo ovviamente arricchire la set list con, certo, delle cover che hanno tutte, a parte la parentesi di Red Headed Woman, in realtà sempre di Springsteen, tutte, diciamo, lo stesso comune denominatore dell'album, cioè parlano di lavoro, parlano, certo, di sofferenze legate alla precarietà del lavoro, o a disastri che magari la pubblica amministrazione non ha saputo evitare e a cui non ha saputo porre rimedio, come nel caso del pezzo di Andy J. Forrest, Bridge in the Levee, per esempio. Però l'idea era ovviamente di mantenere un'idea di scaletta del concerto live, che quindi comprendeva anche, certo, è stato coraggiosa l'idea di fare un live dopo un album da studio, dopo appena un album da studio. Sì, era una delle mie perplessità. Esattamente. Perché tu hai detto il mercato, a me del mercato non mi interessa assolutamente, sì, nulla. Anche perché non credo in questo momento si possa parlare di mercato, certo, nell'industria, certo, discografica, fondamentalmente. Sì, lui dice di sì. No, conferma. In realtà poi è una cosa che ho già detto altre volte, no? Pensandoci poi dopo, il secondo disco, parlando solo di blues, no? Di solito è anche il disco più complesso, sì, da fare, no? Lo dice anche Caparezza. Certo, è vero. Il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista. Memore di questa cosa ho detto, io frego tutti e faccio come secondo disco un live. Perfetto. Così io, i pezzi sono gli stessi del primo, quindi se non faceva schifo quello prima, più o meno ce la facciamo. No. Secondo me ci sono dei motivi anche molto importanti, nel senso che... Dimmi. Sicuramente il disco in studio ci ha dato delle ottime soddisfazioni. Certo. Secondo me quello sicuramente ha suggellato il fatto che stiamo dando un prodotto di qualità. Secondo me è importante avere un live, perché comunque testimonia il fatto che dal vivo tu sei una garanzia. Cioè, quando tu dai un live, la gente che ascolta quel live sa esattamente quello che tu stai facendo. Certo, certo. Cioè, uno può dire, vabbè, caspita, avete fatto un bel disco, ci avete speso un sacco di soldi, però onestamente non vi prendo perché non so poi dopo dal vivo com'è che suonate. Allora, guarda, ti do questo, così sei sicuro che almeno capisci. È. E quindi la cosa è abbastanza importante. Ma è vero il discorso che vuoi fare un altro album dal vivo un'altra volta? No. Cioè quella idea, ho letto da qualche parte. No, l'idea di base era che volevamo, cioè una delle possibilità poteva essere quella di registrare questo live, sì, in uno studio con il pubblico. Ah, ho capito. Quindi questa era la prima idea, l'idea principale. È vero però che quello che mi piacerebbe fare, cioè ci piacerebbe fare nel prossimo disco, è avere un impatto ancora più live. Cioè, cosa vuol dire più live? Più live vuol dire che... Più a Black Rose. Sì, esatto. Cioè, quella roba lì. Nel senso, suonato ancora più tutto, perché chiaramente i pezzi di Blues for the Working Class hanno fatalmente avuto delle sovraincisioni successive. Certo, certo, no? La voce è stata ovviamente registrata in un secondo momento. La cosa che sarebbe molto bello fare è invece incidere proprio pronti via live i pezzi nuovi del disco. Ah, ho capito. Immediatamente. In diretta. Senza ulteriori aggiustamenti. Perché con il live... Perché l'essenza è questa. Sì, con il live credo che si possa dire che è una cosa che potremmo fare, insomma. Certo, visto, certo, il risultato del live o dei live in realtà. Quindi, io vorrei citare anche il fonico, che è stato molto molto, certamente, bravo. Si chiama Davide Perico, sì, che ha anche sonorizzato la sala, ma nello stesso tempo ha registrato, mixato e masterizzato. Cosa vuol dire un fonico di questa importanza per un live? È fondamentale, nel senso che, per quanto mi riguarda, tu puoi essere il cuoco più migliore del mondo, prendi la cosa che fai meglio e la proponi al pubblico, ma in un piatto di plastica, magari quello del cane, questa roba qui non te la mangerà mai nessuno. Ho capito. Quindi il fonico è colui che invece presenta tutto il tuo lavoro nel miglior modo possibile, con i guanti bianchi, con le posate d'argento, e la gente rimane, è fondamentale, guarda, almeno questa è la mia opinione. No, certo, è vero, ha ragione, e poi ha fatto un grandissimo lavoro Davide, perché comunque già le riprese no, spostano nettamente, cioè un live può venire anche suonato alla stessa maniera, può venire bene o male a seconda se le riprese che ci sono del live sono di buona qualità o di qualità così così o di pessima qualità. Certo. Quindi già il lavoro che ha fatto sulla sorgente era già stato ottimo. Poi tutto il lavoro di mix che è stato fatto è stato curato molto bene, io sono contento. Devo dire che siamo sempre capitati molto bene come fonici, perché anche Antonio Cooper, sì, dalle Officine Meccaniche sul lavoro in studio ha fatto un altro gran lavoro, e sono due persone che sicuramente nei prossimi progetti continueremo a coinvolgere. Dobbiamo sottolineare che tutto il disco è autoprodotto da te praticamente. Sì, artisticamente e anche esecutivamente. In realtà la produzione artistica ha risentito molto positivamente dell'apporto del loro apporto della band, fondamentale. Perché poi è chiaro che bisogna anche saperli ascoltare e avere magari l'umiltà o comunque la capacità di capire che loro sanno dove devono andare. L'ho lavorato con loro, ho chiesto se volevano lavorare con me perché sapevo che avevano questo tipo di approccio. Certamente. Però ecco, cioè, senza di loro non sarebbe, cioè, anche con la mia produzione artistica, ma con un'altra band non sarebbe stato lo stesso. Chiaramente, l'impronta deve essere qui. Assolutamente. Francesco, cosa dici? Un altro pezzo da studio, da album? Certamente, abbiamo pronto già sul piatto, almeno una volta si diceva così, quando così c'era il vinile, abbiamo sul piatto la traccia numero 3 dall'album Blues for the Working Class di Daniele Tenca, che si intitola My Work No Longer Fits for You. L'ho detto bene, anche se il mio inglese non è il massimo, ma credo di averla azzeccata. Gonna pay my loan, needing money every day. Just gonna tell my bank you don't need my skills and brain. The levee's breaking and I'll start sinking soon. Well, my world is burning, 'cause my work no longer fits for you. My chair, my spot, my desk, my place. In your charts I'm a number, you don't even know my name. You got your software and I'm just gone for good. Well, my world is burning, 'cause my work no longer fits for you. Gonna feed my children, who's gonna stand their eyes? Who's gonna tell my wife all your promises were lies? My middle class lifestyle is turning into a doom. Well, my world is burning, 'cause my work no longer fits for you. Soul from this bullet and a gun. I feel the trigger burning. Tell me, how do you feel, son? My hands are shaking, your knees are shaking too. Now your world is burning, 'cause my work no longer fits for you. Devo ringraziare e salutare Alberto Prisco, che è il nostro direttore artistico, che è il curatore di questi live. Grazie Alberto. E Francesco, tu non hai visto, i nostri ascoltatori non vedono, non c'erano le telecamere, però i ragazzi si sono messi d'accordo su che live fare. Allora noi facciamo così, questo accordo così, è vero, è bello così, è proprio si respira l'aria della band. Cosa dici, Daniele? Sì, anche la paura la paura sapere cosa fare, non facciamo, vediamo. No, adesso abbiamo deciso, partorito l'idea. e facciamo un pezzo sempre da Blues for the Working Class, che si chiama The Plant, dove abbiamo suonato nella versione in studio quello che ho chiamato lo strumento del demonio, che è una particolare percussione che ha inventato Pablo, che ha un suono un po' particolare, un manico di scopa praticamente, con sopra delle una miriade delle percussioni, indefinite, certo, che colpito per terra, microfonato, ha dato secondo me un effetto divertente. Non l'abbiamo portato oggi, quindi faremo senza. Però se poi non so, anche tu Pablo o Luca volete fare un po' di ritmica con le mani, con quello che volete. Okay. The Plant. Bellissimo. Eggy ha preso la chitarra acustica dall'elettrica, ha fatto questo effetto un po' particolare, bello come sempre, ricordava certe cose che faceva Dune Alma e Greg Alma all'epoca con gli Alman Brothers Band, ma è proprio, esatto, proprio roots, proprio il cuore degli Stati Uniti, degli USA così chiamati. Bene, una cosa meravigliosa. Il live è sempre acustico, è una cosa molto bella, diversa dal live elettrico, come giustamente ha detto Daniele. E qualcuno dice: è più difficile il live acustico. Cosa dice Daniele, secondo te? Guarda, non lo so, nel senso che è vero che se sei in acustico hai meno supporto strumentale. Esattamente. E se fai un errore lo sentono anche nel locale in fianco. In fianco. No? Però non è detto che sia più difficile, cioè anche perché io per esempio sono stato spesso abituato a suonare in acustico da solo, ti fa lavorare su un livello diverso, di concentrazione, di approccio, di vocalità per esempio, però non è detto che sia più difficile che far lavorare una band o lavorare con l'energia giusta, certo, live, certo, a livello elettrico, quindi... Ricordiamo dove possiamo trovare i tuoi dischi, Daniele, il tuo sito, cioè. I miei dischi si possono comprare online dal mio sito, che è danieletenca.com, da dove poi trovate tutte le date aggiornate del tour, trovate dei video, insomma trovate un po' di, c'è l'album in streaming da ascoltare, E in particolare Life for the Working Class lo potete trovare sia dal mio sito, che rimanda al link dell'etichetta Route 61 Music, che è, che è di Ermanno La Bianca, ma anche dal come dire, nei migliori negozi di dischi, perché è distribuito IRD. Perfetto, quindi non ci sono problemi. Ermanno La Bianca è il springstiano per eccellenza, possiamo sì, dire. Sì, direi di sì. Uno delle, credo che lui abbia dimenticato più cose su Springsteen di quelle che io so, quindi sì. Figurarsi, sicuramente sì. Benissimo, adesso in scaletta forse c'è un altro pezzo dal disco, vero? Sì, mi chiamo Francesco. Sì, esatto, perché mi confondo con lo Stefano spesso che viene a trovarmi alla sera. Sì, è vero, è vero. D'accordo Maurizio, andiamo allora a sentire la traccia numero 8 dall'album di Daniele Tenca, si intitola Factory, la prendiamo dall'album Blues for the Working Class. Whistle blows, man rises from bed, boots on his clothes, man takes his lunch, walks out in the morning light. It's just a working, just a working life, through dimensions of fear, through dimensions of pain. See my daddy walking through the fucking factory gates in the rain. Factory takes a searing, factory gives him life. It's just a working, just a working life. It's just a working, just a working life. Just a working life, just a working life. Just a working life. Cries, men walk through these gates with just death in their eyes. Well, you just better believe it, boy. Somebody's gonna get hurt tonight. It's just a working, just a working life. It's just a working life. It's just a working, just a working life. Just a working life, just a working life, just a working life. Grande musica, Blu Radio Veneto, vi ricordo Blu Radio Sera per questo sabato sera eccezionale insieme a Daniele Tenca e la sua band. Questo abbiamo sentito, questo pezzo di Springsteen, questo pezzo torrido, questo blues torrido alla Kenny Dietz, secondo me. Cosa dite, ragazzi? Beh sì, molto diverso dall'originale. Dall'originale, assolutamente. Sì. Questa è la versione da studio, quella live è un pochettino più accentuata. Sì, sì, sì, beh è ancora più forse blues. È forse più blues, strettamente sì. Blues, qui c'è... l'apporto di Massimo Martellotta alla lap steel, Alex Aliprandi al banjo, quindi insomma un po' di gente. Di strumenti anche diversi. Esattamente. Diciamo. Parliamo della tua amicizia con Andy G. Forrest, che è un'amicizia importante. Sì, più che la mia, io. Parliamo dell'amicizia della band. Soprattutto della band, perché loro sono la band che ha. Che accompagna DJ Forrest nei tour europei e non solo dal 94, quindi da molti anni. E hanno vinto con lui un premio in Louisiana nel 2007, se non mi ricordo male, il Beat Award, che li premiava con miglior album blues della Louisiana nel 2007. L'album era Real Stories, loro l'hanno inciso con Andy a New Orleans. Nel 2001 abbiamo vinto il premio sempre con DJ Forrest in Francia come miglior band live francese. Quindi io, vabbè, loro li conoscevo anche per altre, cioè, diciamo, per vie diverse. Pablo probabilmente no, in realtà. Però poi io li ho sentiti con Andy e devo dire la verità che, cioè, sono tante volte non ti rendi conto quando suoni, no? Che cosa viene fuori quando sei giù dal palco. Io me ne rendo conto quando vado a sentirli con Andy, per esempio, che è una gran fortuna questa. E tant'è vero che poi Andy è stato, io lo devo ringraziare perché ha sempre supportato il nostro progetto, in realtà, e in due modi, nel senso che nel disco in studio ha suonato l'armonica su un pezzo di This Working Day Will, certo, Be Fine, e poi ci ha dato l'ok per l'album, per il live, per mettere la nostra versione di Breach and Levy, certo, che secondo me è un pezzo veramente meraviglioso. Benissimo, visto che siamo quasi alla conclusione, abbiamo deciso io e Francesco di farvi suonare due pezzi. Va bene. E avete scelto che cosa di due pezzi? Allora, abbiamo scelto, il primo è una cover. Sì. È una cover che facciamo a volte live, di Mavis Staples. Si chiama I'm On My Way. E poi invece chiuderemo con un nostro pezzo che magari presentiamo dopo. Perfetto. I'm on my way to freedom land. I'm on my way to freedom land. I'm on my way to freedom land. I'm on my way, great God. My brother, won't you come with me? I ask my brother, won't you come with me? I ask my brother, won't you come with me? I'm on my way, great God. Sisters, won't you come with me? I ask my sisters, won't you come with me? I ask my sisters, won't you come with me? I'm on my way, great God. Said no, I will go alone. If they said no, I will go alone. If they said no, turn back. I'm on my way, and I won't turn back. I'm on my way, great God Almighty, I'm on my way. Where I'm on my way. Perfetto. Questo, com'è quel suono che hai fatto, Pablo? Paganini non ripete. Perfetto. Una precisa scelta artistica. Okay. Un pezzo molto bello, molto d'atmosfera, da notte fonda. Non è molto fonda adesso, però dava questa sensazione, Daniele. Cosa dici? Sì, sì, sì. Poi è un bellissimo pezzo che parla di, insomma, credere in quello che si è scelto. Quindi, insomma, bello, bel pezzo, grandissimo pezzo, un grandissimo disco. Certamente. Ok, siamo verso la conclusione, Francesco. Eh sì, dobbiamo andarcene perché fra non molto ci sarà un altro programma che comincerà, quindi abbiamo il tempo però di ringraziare tutta la band che è venuta a trovarci questa sera, appunto di Daniele Tenca. Ricordiamo i nomi di tutto il gruppo. Sì, Pablo Leon alla batteria, stasera in forma ridotta ma sufficiente, e Luca Tonani al basso. Poi chiaramente Daniele Tenca, batteria, cioè chitarra, suona anche, stasera non c'è l'armonica, ma suonavi anche l'armonica, e Egli Vezzano, il grande chitarrista solista della band. Grazie, grazie a voi, io ringrazio voi due, ringrazio Alberto che non è qui, che ci ha voluto qua ed è da tantissimo tempo, grazie a Blu Radio Veneta, siamo stati benissimo e spero che ci si riveda ma presto. Ma certamente, quando avrete voglia di fare un giretto per Padova, qualche data ci sarà sicuramente. Assolutamente. Con cosa finiamo stasera, ragazzi? Finiamo con uno shuffle, come più o meno abbiamo iniziato, che parla del fatto che le aziende stanno chiudendome the mills are closing down. Indifferentemente sia dal live che dallo studio, e con questo vi ringraziamo ancora tutti e vi salutiamo. Grazie. 1, 2, 1, 2, 3, 4. We'll be right back. car, leave this town in a mess. While you're driving your black car and you leave this poor town in a mess. People staring at their hopes fading away so fast. Have you heard the news? The mills are closing down. Have you heard the news? The mills are closing down. And the foreman says, son, there'll be no more work in town.